Nel terzo capitolo della Mishnah di Sukkah, nella sesta Mishnah, vediamo le regole che riguardano l'aspetto fisico dell'etrog, cosa potrebbe renderlo invalido per la mitzvah e cosa invece non lo renderebbe invalido. Vediamo il testo della Mishnah. Alta chazazit al rubò. Se la maggior parte rubò, come spiega la Gemara, la maggior parte di un lato dell'etrog è coperto da una chazazit, che sarebbe come una crosta fine. Secondo caso, nitla pitmato, se il picciolo superiore dell'etrog viene ad essere tolto, se è stato tolto in qualche maniera. Se, terzo caso, niklaf significa è sbucciato, cioè la buccia più esterna fine, non tutta la parte bianca che nelle troghe è molto, molto spessa, molto più di un limone, ma la parte più esterna della buccia è stata sbucciata. Prossimo caso indicato dalla Mishnah, nisdak. Nisdak significa c'è una spaccatura, quindi un'apertura in lunghezza, secondo alcuni commentatori, dall'alto verso il basso, oppure una spaccatura, secondo altri, che va da un lato all'altro, verticalmente, orizzontalmente, nelle trog. In tutti questi casi, e adesso scusate, aggiungiamo un altro caso ancora, nikav, se c'è non una spaccatura ma un buco, quindi nella spaccatura non manca nulla dell'etrog, solamente che si è aperto, invece nel buco manca qualcosa, quanto manca, vechassar kol shehu, anche se viene a mancare dall'etrog il minimo assoluto di volume a causa del buco, in tutti questi casi passul. L'etrog non è valido. Su questo caso qui del buco, dell'etrog bucato, e che manca qualche pezzo dell'etrog, anche un pezzettino minimo, c'è una discussione. Secondo Rashi si intende che il buco, anche se non va da un lato dell'etrog all'altro, ma se comunque manca il minimo volume dell'etrog, è invalido. Mentre invece il Rambam, il Maimonide, spiega la Mishnah in un'altra maniera. Lui dice sono due casi diversi. Un caso è Nikav, e cioè che c'è un buco che va completamente da un lato fino all'altro, anche se non dovesse essere mancato nulla del volume stesso dell'etrog. E il secondo caso, secondo il Rambam, è Vechassar kol shehu, se c'è un buco in cui manca un pezzettino anche se il buco non è totale. Quindi sono due casi. Uno che c'è un buco che va da un lato verso l'altro ma non manca nulla è comunque invalido passul etrog. Oppure è un buco più piccolo, meno importante, che non va verso da un lato verso l'altro, fino all'altro lato, però comunque manca qualcosa, in quel caso è sempre passul. Ora la Mishnah dice alta chazatit al miuto, se invece la crosta di cui parlavamo copre solo una parte minore, non la maggior parte, di un lato dell'etrog, oppure nital ukzo, se viene tolto non il picciolo superiore, ma il gambo, quello che tiene l'etrog all'albero, oppure nikav, se è bucato, però velo chassar kol shehu, ma non manca nulla dell'etrog, come per esempio se fosse stato bucato da un ago, e il buco non va da un lato verso l'altro, e inoltre non manca nulla dell'etrog, del frutto stesso, allora in questi casi kasher. L'etrog è valido, però va indicato comunque che per ciò che riguarda il primo caso della Mishnah, quello della chazazit, cioè la crosta, la crostina, se questa dovesse essere presente in due o tre punti dell'etrog, anche se non è la maggioranza, non copre la maggioranza, comunque la Gemara dice che l'etrog è invalido, pasul. Inoltre, se questa crostina dovrebbe essere sulla parte più alta dell'etrog, dove va restringendosi, diventa più stretta, va verso il picciolo superiore, lì anche la minima crosta rende pasul, invalido l'etrog, e tutti questi casi di cui stiamo parlando nella Mishnah sono per spiegare cosa significa la definizione di hadar, del frutto che deve essere bello. Quando la Mishnah ha detto pasul, che l'etrog è invalido, è perché si considera che quel tipo di situazione rende il etrog non più un frutto bello, hadar, e quindi non più valido per la mitzvah. La Mishnah prosegue, etrog hakushi, il etrog etiope, alcuni commentatori dicono, comunque il senso è un etrog totalmente nero, molto scuro, pasul, è invalido. Anche se si spiega nei commentatori, lo riporta il Bertinoro, Rav Ovadia di Bertinoro, Bartenura come altri dicono, che se c'è un luogo in cui è naturale che gli etrogim crescono con un colore molto scuro, allora in quel caso sarebbe valido. Solo gli etrogim a cui noi siamo abituati, questo colore non sarebbe un colore normale, di conseguenza rimane pasul in quel caso. Un'altra situazione legata al colore, v'hayarok che kartè, il etrog che è verde come il porro. Rabbi Meir Machshir, su questo troviamo una discussione. Rabbi Meir è dell'opinione che il etrog verde come il porro, o come altri spiegano il Rosh, Rabbeinu Asher, come l'erba, il verde dell'erba, questo è il colore dell'etrog. Rabbi Meir dice comunque l'etrog è kasher, mentre invece Rabbi Yehuda contesta questa posizione, Rabbi Yehuda possel, Rabbi Yehuda lo rende pasul, e la halakha poi seguirà Rabbi Yehuda. La Gemara spiega l'opinione di Rabbi Yehuda dicendo che un etrog di questo colore non è da considerare un etrog bello, perché il vero colore dell'etrog è il giallo a cui arriva più tardi nel suo processo di maturazione, e secondo e la Gemara spiega inoltre che non, o appunto come dicevo perché non è bello, oppure perché non è ancora considerato un etrog maturo e pronto quindi per essere considerato un vero etrog valido per la mitzvah. Quindi come dicevo l'alakha segue Rabbi Yehuda. Ora nella prossima Mishnah vedremo la misura dell'etrog, minima e massima. Mishnah Zain, settima Mishnah. Shiur etrog hakatan. La minima misura dell'etrog, qual è? Shiur significa misura. Rabbi Meir Omer, abbiamo di nuovo una discussione tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda, come nella Mishnah precedente. Rabbi Meir dice ka egoz. Deve essere grande, minimo, la grandezza minima come quella di una di un noce. Egoz. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda deve essere, dice, deve essere cabeza, almeno grande quanto un uovo, che è più grande di una noce. Quindi, la halakha, in questo caso Rabbi Yehuda è più rigoroso, dice che se è più piccolo della beza, anche se è grande quanto la noce, non è valido, e la halakha in questo caso segue Rabbi Yehuda. Se avessimo un etrog minimo di misura rispetto al uovo, non sarebbe valido per la mitzvah. Per ciò che riguarda invece uvaga, Per ciò che riguarda invece la misura massima, qui abbiamo un'altra discussione. La prima opinione è quella di Rabbi Yehuda, che la Mishnah cita subito e dice che Dei sheyoches shnaim beyado achat. La misura massima dell'etrog è che la persona potesse tenere in mano due etrogim in un'unica mano. Se non entrano due etrogim in una mano, allora significa che sono troppo grandi o è troppo grande l'etrog per la mitzvah. Questa è l'opinione di Vrei Rabbi Yehuda. Queste sono le parole di Rabbi Yehuda. Qual è il motivo? È un modo strano di definire la misura di un frutto. In realtà non è così strano perché cosa dobbiamo fare? La Gemara spiega. Dobbiamo tenere in mano, in una mano, il lulav e l'etrog. Non dobbiamo per forza tenerle sempre in una mano, ma quando ci fosse la necessità appunto di tenerli in una mano per un motivo o un altro, allora a volte bisogna cambiare da una mano all'altra e tenerle magari per un momento in una sola mano. Se l'etrog sarebbe troppo grande per tenerlo insieme all'ulav in una mano, potrebbe cadere e diventare pasul. Diventare invalido per la mitzvah. Di conseguenza, Rabbi Yehuda dice: come si misura? Prendi in mano due etrogim per sicurezza, e se è troppo grande, allora non rientra nella mitzvah. Mentre invece, Rabbi Yose dice: afilu echad bishtei yadav. Anche se può tenere un etrog in due mani, sarebbe comunque valido. Cioè, lui dice: non c'è limite massimo alla grandezza del etrog. Anche se dovessi aver bisogno di tenere l'etrog in due mani, che non ci riusciresti a tenerlo in una, è comunque valido per la mitzvah. E la Gemara addirittura cita una Baraita dove c'è scritto che una volta, appunto, è sempre Rabbi Yosè che lo dice, racconta che una volta Rabbi Akiva arrivò al Beta Knesset con un etrog così grande che lo trasportava sulla spalla. Non è una cosa molto accettata dagli altri Chachamim, come si spiega lì nella Baraita, nella Gemara, ma in ogni caso sarebbe considerato kasher, nel senso che non c'è limite in realtà alla grandezza dell'etrog, non c'è limite massimo, minimo abbiamo visto che c'è limite, e in questo caso l'alacha non segue Rabbi Yehuda, ma segue Rabbi Yosè. Quindi si accetta che il minimo volume dell'etrog deve essere almeno come un uovo, come Rabbi Yehuda diceva, ma per ciò che riguarda il massimo non c'è limite. Avendo visto le regole che riguardano i difetti eventuali dell'ulav, del hadas, dell'arava, e dell'etrog, quindi di tutti i quattro minim, tutte le quattro specie. Ora vediamo come vanno legate insieme le tre specie che si legano. Che come sappiamo, abbiamo la mitzvah di legare insieme tutte le quattro specie, oltre all'etrog, che va tenuto insieme ma non legato insieme. E la Mishnah dice: En ogdin et alulav. Non si lega l'ulav con le altre due specie, quindi Hadas e Arava, e la Beminò, se non che con un qualcosa che deriva dalla sua stessa specie. Quindi con un altro ramo o con un'altra foglia di lulav si usa quello per legare il lulav con le altre specie. Questo di Vrei Rabbi Yehuda. Questa è di nuovo l'opinione di Rabbi Yehuda e la Gemara approfondisce e analizza la sua opinione, spiega che visto che nell'ulav troviamo che la Torah richiede che sia preso insieme con le altre specie, e lo stesso termine ulekachtem che si usa nell'ulav si usa anche in un altro contesto, quando si parla di diciamo così, alcuni rami che vengono legati insieme, si chiama agudah. Adesso mi sfugge la parola in italiano, però la Torah dice chiaramente: Lokachtem agudat ezov. Prenderete una agudà, quindi una cosa legata insieme di vari rami di issopo, e in quel caso, appunto, si usa sempre la stessa parola ulekachtem. Secondo Rabbi Yehuda, l'esattezza della parola usata va ad indicare una gezerah shavah, e quindi che si applica la regola del ulekachtem nell'altro contesto, al ulekachtem che è legato invece al contesto di Sukkot e dell'ulav, e così come lì deve essere legato, perché appunto si chiama agudà, che è proprio la definizione, è una cosa legata, vari rami legati insieme, anche qui deve essere legato. E quindi, visto che la legatura stessa fa parte della mitzvah del ulekachtem, delle quattro specie, se io dovessi legare con un'altra specie, allora sarebbe come aggiungere alla mitzvah, perché sarebbe cosa? Prenderesti in mano cinque specie, non quattro. Di conseguenza Rabbi Yehuda dice che deve essere limitato solo alla specie dell'ulav. Viene Rabbi Meir e dice no. Rabbi Meir Omer, afilu bimshicha. Puoi legarlo anche con un semplice spago, con un semplice filo. Perché secondo Rabbi Meir, lui non accetta la Gezerah Shavah di cui parlava Rabbi Yehuda, e secondo lui la parola ulekachtem non indica questa cosa, e secondo Rabbi Meir sempre la agudà, il fatto di legare il lulav con le altre specie, è una questione di bellezza, ma non di una halakha assoluta che riguarda solo queste quattro specie, e quindi secondo lui legarlo con un'altra specie non costituisce un'aggiunta alla mitzvah, e non è considerato come se prendesse cinque al posto di quattro specie, come invece pensava Rabbi Yehuda, e quindi dice no, puoi usare anche un semplice filo. Poi Rabbi Meir cerca di supportare la propria posizione citando l'usanza della comunità di Gerusalemme. Amar Rabbi Meir, disse Rabbi Meir, ma sebe anche Gerusalemme, accadeva presso la gente di Gerusalemme, cioè si comportavano nella seguente maniera, shehayu ogdin et lulavehen, che loro legavano, quindi formavano la agudà, ogdin et lulavehen, begimoniot shel zahav, con dei fili intrecciati, tipo fatti come una catena, di oro. E l'oro, chiaramente, non è una delle quattro specie. E quindi, per lui, questa sarebbe una prova che la sua posizione è quella corretta. I maestri non accettarono questa cosa, e dissero, Amru lo chachami, i maestri gli dissero, Bemino hayu ogdinoto milemata. Bemino, loro usavano la specie stessa dell'ulav per legare da sotto il ulav e le altre tre specie, le altre due, quindi le tre specie l'ulav ad assime aravot, quindi sotto dove si tiene il ulav lo tenevano legato con la specie stessa dell'ulav, e una volta fatta quella mitzvah abbellivano altri punti dell'ulav con questi fili o queste catenine d'oro. Ma questa non è una prova. Allora come rimane la halakha? In questo caso, in realtà, anche se i maestri hanno detto la tua prova non è una prova così esatta, nonostante ciò, in realtà la halakha segue Rabbi Meir, e cioè che legare il ulav con altre cose estranee alle specie dell'ulav è comunque una cosa valida. Anche se si usa oggi in moltissime comunità comunque usare il lulav stesso per creare la legatura o il modo di legare per abbellire ancora di più la mitzvah, ma in questa Mishnah l'alakha segue Rabbi Meir. In generale nella Gemara è scritto che il lulav viene preso in mano destra e l'etrog in mano sinistra, è il contrario per chi è mancino, perché la destra è considerata la mano più importante, la parte destra è quella più importante, e visto che all'ulav sono associate anche le altre due specie, Quindi sono tre in una mano, allora vanno messe nella mano destra e l'etrog è preso, che è un'unica mitzvah, un'unica delle quattro specie, viene messo in, viene preso dalla mano sinistra. Inoltre anche la Berachah menziona solamente il Lulav, perché appunto è quello più alto ed è quello centrale della legatura delle quattro specie. Ora, tornando a citare un attimino la prima Mishnah di questo capitolo, se vi ricordate, cosa abbiamo studiato? Abbiamo studiato le regole che riguardano il ramo dell'ulav, la palma, che deve essere alto almeno 3 tefachim, 3 pugni, e deve avere lo spazio sopra, dove non è legato con le altre specie, per poter essere scosso, per fare per scuotare, come si dice, in Anuim, i movimenti con il Lulav. Quindi, da questo possiamo capire che c'è una mitzvah di fare questi movimenti con il Lulav. Ora, quando è che si fanno? Innanzitutto si fanno nel momento in cui si fa la mitzvah, si dice la Berachah al Netilat Lulav, ma si fa anche durante, quando si recita l'Hallel. Quando si recita l'Hallel, ci sono dei punti in cui si fanno i nanuim, si muovono e si scuotono il lulav con le altre specie. La domanda è in quale punto del Hallel? E di questo si parla nella seguente Mishnah. Dice la Mishnah, Veichan hayu menanein, in che punto del Hallel si fa il naanua, i nanuim? In quali versetti si fa? Allora la Mishnah dice, Behodu l'Hashem, Tichila Vasof. Al versetto di Hodu l'Hashem, che è all'inizio del capitolo 118, che fa parte del Hallel, Salmo 118, e alla fine c'è la ripetizione dello stesso versetto, Hodu l'Hashem, Kitov, Kileolam Chasto, c'è due volte, all'inizio e alla fine di questo capitolo. E in questi due punti si fanno i nanui. E la Mishnah aggiunge, Ubeana Hashem Hoshiana. E anche, concludendo, scusate, in mezzo, quando si dice Ana Hashem Hoshiana. Questa è l'opinione di Bet Hillel, la casa di Hillel, la yeshiva di Hillel, divrei Bet Hillel. Perché proprio in Ana Hashem Hoshiana, cosa significa Ana Hashem Hoshiana? Significa Signore, salvaci. E c'è scritto nel versetto, Asira nenu atze ayar, milifne Hashem, ki va lishpotet haaretz. Cosa significa? Che le erbe del bosco gioiranno dinanzi ad Hashem, che viene a giudicare la terra. E c'è scritto anche lì, Hodu l'Hashem kitov, eccetera. Cosa significa che le erbe gioiscono? Allora il Midrash dice che durante Rosh Hashanah, quando noi siamo giudicati, tutto il mondo è giudicato davanti ad HaKadosh Baruch Hu, e non si sa chi sarà meritevole e chi non sarà meritevole. HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la mitzvah, questa qui delle quattro specie, delle Arba Minim, per gioire con questi lulavim, come se fossero dei fiori e delle piante con le quali una persona gioisce dopo che esce meritevole da un processo. La sentenza vuole che la persona è meritevole e la persona quindi gioisce, prende fiori e piante, balla e scuote le piante. Questo è il significato che, dice il Midrash, le erbe del bosco gioiranno, cioè noi gioiremo con le erbe, quindi con i nanuim, con i movimenti che facciamo con le quattro specie. Quando siamo usciti da dinanzi il cospetto di HaKadosh Baruch Hu, siamo stati giudicati in bene. E i due versetti di Hodu l'Hashem Kitov e Hoshiana sono anche allusi. Hodu l'Hashem è proprio, non è alluso, è proprio esplicito, e Hoshiana è anche alluso perché si dice Hoshienu nello stesso versetto di Divrei Hayamim delle cronache che si parla di appunto gioire con tutte le, con le erbe che vengono indicate, che vengono identificate con le quattro specie. Questo appunto abbiamo detto, ha detto Bet Hillel, ricapitoliamo, che nel Hodul Hashem all'inizio, Hodul Hashem alla fine e anche nel Anah Hashem o Shiana, questi sono i punti in cui si fanno i Nanuim. Bet Shammai Omerim, maestri della casa di Shammai aggiungono, Af be'anah Hashem atzlichana, anche nella seconda parte del verso che abbiamo citato, Anah Hashem o Shiana, poi si dice Anah Hashem, per favore Signore, atzlichana, facci avere successo, Hatzlacha. Anche qui bisogna fare i Nanuim. L'Halakha rimane come Bet Hillel, così come appunto usiamo anche oggi. Ora una testimonianza di Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva. Tzofe hayiti, io stavo osservando, io osservavo, Berabban Gamliel u Berabbi Yoshua. Rabbi Akiva condivide con noi come lui osservava il comportamento dei suoi maestri per sapere, per imparare il giusto comportamento secondo l'Alaha. E dice, io guardavo, osservavo Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua, Shekol ha'am hayumenaneim et lulavehen, anche quando tutto il popolo, cioè tutti i presenti, facevano i Nanuim con i loro Lulavim, ma loro non si univano ogni volta al pubblico. Vehen, questi due Chachamim, Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua, lo nineu ela be'anah Hashem Hoshiana, facevano i Nanuim solo, unicamente, nel punto di Anah Hashem Hoshiana, e non nell'Anah Hashem Atzlichana, quindi come diceva Rabbi Bet Hillel, e non come Bet Shammai. Secondo alcuni, Rabbi Akiva intende dire non solo che non lo facevano in Anuim a Anah Hashem Atzlichana, come diceva Bet Shammai, ma neanche nell'Odul Hashem, quindi solo proprio esclusivamente nell'Anah Hashem Oshiana. Ma anche se così fosse, l'Alaha non seguirebbe questa opinione. Quindi si fa in Anuim sia nei Odul Hashem, come diceva Bet Hillel, e anche nell'Anah Hashem Oshiana. Ora la Mishnah aggiunge, sempre nella stessa Mishnah, alcune altre halachot che riguardano il lulav. Mi sheba baderech, se una persona ha fatto un viaggio, velo haya biyado lulav litol, e non aveva possibilità di, non aveva in mano, non aveva la possibilità di prendere in mano il lulav e fare la mitzvah. Allora la Mishnah dice, Lichshi kannes leveto, quando torna a casa, yitol al shulchanò, prenda in mano il lulav anche sul proprio tavolo. Significa, anche se ha dimenticato di farlo, è entrato a casa e ancora non si è accorto di non aver fatto la mitzvah e si è messo a tavola a mangiare, interrompa il pasto e a tavola stessa faccia la mitzvah. Secondo caso della Mishnah, Lo natal shacharit, se la mattina non ha fatto la mitzvah dell'ulav, per qualsiasi motivo, yitol ben ha'arbaim, ha sempre l'obbligo di prendere il lulav e farlo anche di pomeriggio, poiché, come si definisce il tempo in cui c'è l'obbligo di fare la mitzvah dell'ulav, shekol hayom kasher la lulav, tutta la giornata, tutti gli orari diurni sono kasher per la mitzvah di Netilat Lulav. Durante tutti questi momenti si può prendere in mano il Lulav, ovviamente va fatto la mattina, ma se, come dice la Mishnah, non è stato fatto la mattina, può ancora essere recuperato fino al tramonto. Mishnah Yud, prossima Mishnah. Se una persona non sapeva leggere, e quindi per ciò che riguarda la mitzvah di recitare il Hallel, normalmente quando uno non conosce una tefilah, e va al tempio, o per un'altra mitzvah, come può essere per esempio il Kiddush, uno può sentire il Kiddush da un'altra persona e rispondere Amen, e fare attenzione, e uscire anche lui l'obbligo, perché normalmente c'è una regola che si chiama Shomea Keone, quando tu senti e ascolti, è considerato come se tu ripetessi. E quindi esci l'obbligo. Questo però è valido se chi legge è anche lui tenuto a riempire lo stesso obbligo che sei tenuto tu. Significa se io ho l'obbligo di fare il kiddush, io faccio il kiddush, vale per me e vale anche per te. Ma se io non avessi l'obbligo di fare il kiddush, non posso farti uscire l'obbligo a te. L'unica cosa che potrei fare, e tu non sai leggere, è dire le parole. E tu le ripeti in modo tale che sei tu alla fine che fai il Kiddush. È proprio di questo caso che la Mishnah parla, ma nel contesto del Hallel. Se una persona non sa leggere l'Hallel, e un'altra persona che però non ha l'obbligo di recitare l'Hallel, glielo fa leggere, la Mishnah dice, per esempio, Mi Shehaya Eved, se uno schiavo, o Isha, oppure una donna, o Katan, oppure un minorenne, Makrin Oto, lo facevano leggere, cioè dettavano a lui e lui ripeteva, che loro non sono obbligati a fare la lettura dell'Hallel. Solo il maschio del Bar Mitzvah deve fare l'Hallel in questi casi. E lui non sa leggere, e qualcun altro che non è obbligato, appunto, glielo fa ripetere. Allora, Oneh Acharehen è obbligato a ripetere quello che loro dicono. In altre parole, la Mishnah ci sta dicendo qui che non è sufficiente sentire da loro, perché loro non sono obbligati, come spiegavo prima. Quindi non possono farti uscire l'obbligo se loro non sono obbligati. Quindi ecco perché la Mishnah dice tu devi ripetere, non basta sentire. Oneh Acharehen Mashehen Omrin, ripete dopo di loro quello che loro hanno detto. Ma la Mishnah dice come una parentesi, anche se non è in parentesi, Utehi lo me'era, gli venga una maledizione. Significa avrebbe dovuto imparare a leggere. E poi la Mishnah conclude dicendo, Imaya gadol ma creotò, ma se chi lo faceva leggere era un maschio non minorenne, gadol significa maggiorenne, allora può uscire l'obbligo perché anche chi legge ha lo stesso obbligo, quindi può far uscire l'obbligo all'altra persona che non sa leggere, ma deve rispondere solo quindi Oneh Acharav Halleluca. All'epoca si usava che dopo ogni conclusione di ogni pezzo dell'Hallel, o forse anche ogni versetto, il pubblico rispondeva Halleluca. Ogni versetto o in alcuni casi ogni mezzo versetto. Cioè ci si interrompeva, il Chazan si interrompeva e faceva rispondere Halleluca al pubblico. In questo caso il pubblico esce l'obbligo sentendo il Chazan, oppure chi non sa leggere appunto esce l'obbligo perché chi gli sta facendo leggere è obbligato, ha lo stesso obbligo e di conseguenza possono fare uscire l'obbligo l'uno all'altro. Qui concludiamo e poi riprenderemo la prossima volta con altre regole specifiche del Hallel. Nella prossima Mishnah, e poi delle regole sempre legate al Lulav.